373. Pane di lepre. Eccovi un altro rifreddo. Magro di lepre senza osso, grammi 250, burro grammi 100, farina grammi 50, parmigiano grattato grammi 30, rossi d'uovo numero 6, latte mezzo litro. Fate un battutino tritato ben fine con grammi 20 circa di prosciutto e un pezzetto di cipolla, mettetelo al fuoco con la metà del detto burro e con la lepre tagliata a piccoli pezzi, salandola. Quando l'unto sarà quasi consumato e prima che la carne rosoli, versate del buon brodo per tirar la cottura. Cotta che sia, pestatela nel mortaio bagnandola col suo sugo, poi passatela per istaccio. Con la farina indicata, col resto del burro e col latte, fate una balsamella e quando sarà ghiaccia, frullate bene i rossi d'uovo e mescolate ogni cosa insieme. Mettete il composto in uno stampo liscio con una carta imburrata nel fondo e cuocetelo a bagnomaria. Servitelo freddo, contornato e coperto di gelatina, ma poiché oggigiorno nei pranzi si cerca molto la bellezza e l'eleganza nei piatti ed anche qualche grata sorpresa, meglio sarebbe in questo caso che il pan di lepre fosse coperto da una veste tutta unita di gelatina, il che si ottiene facilmente. Si prende uno stampo più grande di quello che ha servito al pan di lepre, se ne copre il fondo di gelatina e quando questa è rappresa vi si colloca il rifreddo in mezzo e si riempie con altra gelatina liquida e il vuoto all'intorno.